Oggi pomeriggio, come primo atto della nuova fase dell'Associazione Bancaria Italiana, assieme a Camillo Venesi, al direttore generale Giovanni Sabatini, siamo andati in Banca d'Italia, dove abbiamo avuto una lunga, importante, molto approfondita riunione col governatore e i vertici della Banca d'Italia. Quanto preoccupato ha trovato Ignazio Visco, governatore? Guardi, la percezione che abbiamo avuto in questa riunione, questo incontro molto soddisfacente, è di una conferma della stabilità del mondo bancario italiano. Una conferma che peraltro in parallelo, mentre noi eravamo in Banca d'Italia, è stata espressa dal dottor Enneria, che viene da un osservatorio ben diverso, un osservatorio europeo, che ha espresso i medesimi concetti di solidità, di valutazione della solidità del mondo bancario italiano. Quindi abbiamo la consapevolezza dei problemi complessivi dell'economia produttiva e delle famiglie, ma abbiamo la forte determinazione a dare il massimo del contributo che ci è permesso dalla legislazione europea ed italiana per cercare di costruire la fase successiva a questa lunghissima crisi, ovvero sia una fase di ripresa. Senta, Presidente Patuelli, quindi Visco, lei insomma, vi ha dato soddisfazione, l'ha trovato abbastanza sì, sereno? Il conto è stato di molta soddisfazione.